America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Siamo ancora, in uno stato di incertezza. Manca il voto, siamo a poche ore dalla scadenza del tetto sul debito e dal rischio di un default americano. Continuiamo tutti a sperare che questo non succeda. Nella notte si è lavorato alla Camera, il Senato ha già una bozza pronta. Oggi si dovrebbe trovare la forza per votare e per superare questo impasse. Ma non vorrei tornare ai dettagli in divenire di questo braccio di ferro politico americano. Vorrei invece continuare a parlarvi dell'Italia. Lunedì Columbus Day Parade. Oggi arriva il presidente del Consiglio Enrico Letta. Domani si incontrerà alla Casa Bianca con Barack Obama. Insomma, vorrei parlarvi di italianità a partire da questo duetto. E cominciamo a volare nel cielo infinito. Renzo Arbore e Jovanotti a Italy. Italy ha festeggiato così il Columbus Day. Devo dire, una serata straordinariamente divertente. Io con me in linea Renzo Arbore. Buongiorno Renzo. Buongiorno a te, buongiorno al pubblico di Radio 24. Allora Renzo, ieri era la grande festa degli italoamericani. Pensa che mentre noi eravamo a Italy, al World of Astoria, c'erano 800 persone, 800 italoamericani col Columbus Day che celebravano Gio Perella, grande banchiere, che è stato il marshal della parata. Sono andato molte volte al Columbus Day, l'ho festeggiato, ho fatto la parata e anche alla cena straordinaria al World of Astoria. C'era naturalmente Rudy Giuliani, il sindaco di New York allora, che ci ricevette anche la mattina a casa sua, quindi sempre grandi emozioni qui. Ecco, ma torniamo agli italoamericani. Secondo te non c'è da parte di noi italiani qualche volta un atteggiamento un po', come dire, ma questi sono i cugini che sono arrivati con la valigia, con lo spago? Sì, sì, io ho sempre lottato contro questo luogo comune. Poi io li ho visti partire, perché sono abbastanza vecchio per ricordare quando ho visto partire i nonni di questi ragazzi dalle navi, perché allora si chiamavano piroscafi, da Napoli, ed era un grande struggimento. I miei compagni di scuola elementare partivano con i loro genitori per la fame, e quindi io credo che il governo italiano non abbia mai reso giustizia alle nostre comunità, non soltanto negli Stati Uniti ma nel mondo. Persone però che poi si sono affermate, perché i figli, Marco, e i nipoti adesso sono, insomma, nelle posizioni più importanti degli Stati Uniti. Assolutamente il meglio, la cultura italiana, l'intelligenza italiana è sposata con il sistema proprio americano, che è quello della professionalità, dell'affidabilità. Quindi quando si sposano queste due qualità, allora nascono poi delle figure come appunto Rudy Giuliani, come tanti altri, Grasso. Pensa, io sono della città dove è nato Fiorello La Guardia, i genitori di Fiorello La Guardia. Fiorello La Guardia è stato il primo italiano pugliese apprezzato, e tanto che le hanno intestato un aeroporto, quindi figurati. Ci sono degli altri italoamericani che sono entrati già nella mitologia americana. Mi viene in mente, tu che sei il più grande conoscitore della musica americana in Italia, se pensi a Simon & Garfunkel e a Mrs. Robinson, viene celebrato Joe DiMaggio, no? A un certo punto dicono "Where have you been, Joe DiMaggio?", cioè dove sei finito, Joe DiMaggio? Quindi addirittura diventa un mito. Ma l'America come mito per te che cosa significa? Quando hai deciso che tu a un certo punto volevi venire agli Stati Uniti? Quando eri bambino? Ma io ho sempre pensato che questo fosse il paese della musica, della libertà. Avevo studiato la storia degli Stati Uniti contemporaneamente, e a Napoli, dove vivevo per studiare, suonavo in un locale che si chiamava USO, United States Organization, che era un locale dove venivano i militari sia dell'aviazione, sia della marina, sia dell'esercito americano. Quindi per me era già un assaggio della cultura americana. Poi finalmente a 34-35 anni, perché allora si partiva tardi, sono venuto negli Stati Uniti e naturalmente sono andato a vedere Woody Allen, a fare amicizia. C'era allora il grande successo di una signora che è nel mio cuore, Mariangela Melato, quindi con lei, con Lina Wertmüller, abbiamo insomma invaso un po' gli, qua, New York, e ringrazio ancora perché noi abbiamo fatto il sold out al Radio City Music Hall nel 93, poi lo abbiamo ripetuto al Paramount Theater, quindi insomma il mio rapporto con la musica e gli italoamericani è fortissimo. Ecco, se ci devi dire qual è la tua sensazione dovendo pensare oggi all'America, all'America che sta soffrendo, che sta cercando di trovare una soluzione perché non si mettono d'accordo sul bilancio, un'America sì, polarizzata, ecco, cosa ti viene in mente? L'America si rigenera sempre, anche ci sono periodi negativi, ma quando c'è la libertà non c'è niente da fare, se tu credi nella funzione straordinaria, tammaturgica della libertà, come credo io, l'America si rigenera. Ed eccoci alla canzone del giorno. Renzo, sei ancora in linea con noi? Ci sei? Certo. Eccoci. Allora, Renzo, beh, la devi scegliere tu la canzone del giorno. Dici. Ma guarda, scelgo una mia canzone perché è una canzone amatissima dagli italiani, ma amatissima anche dagli americani, perché la cantò Frank Sinatra, perché l'ha cantata Michael Bublé, ed è una ballad napoletana, si chiama Anima e Core, ma in americano si chiama How Wonderful to Know, e appunto io l'ho incisa in americano. Per far dispietta a me, how wonderful to know you really love me, how wonderful to know you really care. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.